A bordo campo di Dario Ricci. Certo, io ho fatto cosa posso fare io. Ho fatto il mio segnale, ma non è come io svegliato un giorno prima e ho detto domani faccio questo. No, questo ho avuto in questo momento. Ma io ho fatto il mio segnale, questo è un segnale forte perché anche tutto il Milan, il presidente e tutta la squadra seguite me. Adesso dobbiamo lavorare anche altri presidenti e altre persone importanti. Il razzismo nel calcio come la malaria, ma se per la malaria abbiamo già trovato un vaccino, per la malattia del nostro football questo vaccino ancora è lontano. Così Kevin Prince Boateng, il centrocampista del Milan, il 21 marzo scorso a Ginevra, alle Nazioni Unite, dove il giocatore ghanese, lo ricorderete, era stato chiamato a portare la sua testimonianza dopo i fattacci di Busto Arsizio, dopo quell'amichevole con la Pro Patria dello scorso gennaio, in cui Boateng, dopo gli urlati razzisti che stava subendo, si era tolto la maglia e aveva scagliato il pallone in tribuna, aveva abbandonato il campo seguito da tutti i suoi compagni del Milan. Solo uno purtroppo dei tanti episodi di razzismo che costellano ormai il nostro calcio. L'UEFA ha annunciato un inasprimento delle sanzioni in questo senso, dovrebbe essere ratificato a fine maggio dal congresso di Londra, e proprio di questi nuove decisioni del governo del calcio europeo parliamo oggi qui a bordo campo con un ospite d'eccezione, Mauro Valeri, direttore dell'Osservatorio sul razzismo e antirazzismo nel calcio. Benvenuto, professor Valeri. Grazie, benvenuto a voi. Allora, professore, quali sono le nuove misure che l'UEFA ha preannunciato? Ebbene, sinteticamente, un calciatore condannato per insulti razzisti, se verranno ratificate queste misure, sarà squalificabile per almeno 10 giornate. Verranno chiuse al pubblico le tribune, teatro dei comportamenti scorretti, o addirittura l'intero stadio in caso di recidiva. È quello che ad esempio è capitato in questa stagione europea in Europa League alla Lazio, e ci saranno multe fino a 50.000 euro per i club. Beh, Messier Platini, presidente dell'UEFA, direi, professor Valeri, ci sta provando in tutti i modi a dichiarare guerra aperta al razzismo negli stadi del vecchio continente. Sì, io penso che la notizia più importante è questo allarme nei confronti del razzismo, perché molte volte invece noi ci dimentichiamo che sia un problema reale, un problema che riguarda lo sport, ma poi si allarga facilmente nella società. Quindi penso l'aspetto più importante sia proprio questo, ricordare l'importanza della lotta contro il razzismo. Partendo dal suo osservatorio, no? Dov'è che la situazione è più preoccupante? Ai vertici del movimento, e allora ecco i casi Boateng, oppure alla base su quei campi di provincia o delle serie minori dove anche la cronaca giornalistica non sempre arriva? Allora, diciamo che abbiamo quest'anno un preoccupante aumento degli episodi anche in Serie A, e questo rispetto agli anni scorsi è appunto un segnale d'allarme particolare, il che vuol dire che le iniziative adottate fino adesso sono state iniziative che non hanno sortito effetto. E poi c'è un aumento anche degli episodi nello sport, nel calcio minore, ma lì ha caratteristiche diverse ed è legato molto di più al fatto che ormai i calciatori di seconda generazione, cioè i figli dei migranti, iniziano ad essere più numerosi e sono anche persone che rivendicano di più il rispetto nei confronti del pubblico, nei confronti degli altri giocatori. Chiaramente lei studia in particolare quanto avviene nel calcio, ma il fenomeno non sembra essere così diffuso negli altri sport, anche se ai noi purtroppo capita e può capitare. Perché questo? Qual è la specifica mutazione genetica, mi conceda il termine, che il calcio ha subito in questo senso? Allora, la mutazione genetica è avvenuta all'inizio degli anni 90, quando dei gruppi di estrema destra hanno deciso di fare delle curve un luogo di propaganda. Noi abbiamo avuto il primo picco di episodi di discriminazione razziale e di razzismo più in generale proprio a seguito di questa presenza sempre più violenta nelle curve, con l'obiettivo non tanto di quello che accadeva in campo, all'epoca c'erano anche pochi giocatori neri per fare un esempio, ma proprio con l'obiettivo di utilizzare le curve per fare proseliti. Questo ancora oggi purtroppo è rimasto una componente, ed è una componente che un po' ci distingue da altri paesi europei. Quindi diciamo questa deriva politicheggiante delle curve degli stadi lo individua come caratteristica precipua degli stadi italiani? Questo sì, teniamo conto che nel 93 la famosa legge Mancino, cioè la legge che combatte penalmente l'odio razziale, ha previsto al suo interno proprio una norma che riguardava il razzismo che si verificava nelle manifestazioni sportive, proprio perché l'allarme era già alto, e questa è un po' una particolarità, ripeto, dell'Italia. Ecco, cosa accade invece all'estero? Beh, sappiamo che pene più severe, eccetera, eccetera, però perché questi gruppi politici con queste derive razziste, xenofobe, fanno più fatica a coagularsi, almeno negli stati direi dell'Europa occidentale, perché all'est forse il fenomeno è altrettanto preoccupante. Esatto. Quello che io penso, che almeno dagli studi che ho fatto, è che in Italia è stato fortemente sottovalutato. Diciamo così, che mentre in altri paesi la lotta contro il razzismo è una lotta che riguarda tutti e non soltanto una parte politica, in Italia è stata interpretata invece come una vicenda riguardasse soltanto una parte politica, cioè dichiararsi antirazzista vuol dire schierarsi politicamente. Questa è la grande differenza che c'è in altri paesi. In altri paesi, penso all'Inghilterra, dal tifoso conservatore al tifoso laburista combattono comunque insieme il razzismo, perché sanno che è un problema sociale fortemente pericoloso. Quindi insomma, diciamo, è un tema trasversale alla coscienza comune, alla cultura politica comune, cosa che invece in Italia non è. Le posso fare un esempio? Da noi c'è stato un dibattito un po' demenziale sulle svastiche. A un certo punto c'è chi anche ha difeso il fatto che le svastiche potessero essere esposte negli stadi, perché da noi c'è l'apologia al fascismo e non al nazismo, e quando c'è stato, appunto, qualcuno ha giustamente fatto osservare che era una cosa demente, stavo risposto: allora, se non c'erano le svastiche non ci devono essere neanche le facce e il martello. Quindi è un dibattito che non cammina così, cioè non può essere questo il modo di ragionare. Non è fuori la politica per ora, è fuori quelli che sono i simboli che noi riteniamo che sono simboli di discriminazione razziale. Poi andare agli stadi con simboli politici è una sciocchezza, io ritengo, ma questo non deve farci ragionare giustificando allora dei simboli che sono, per la storia anche dell'Italia, dei simboli di discriminazione razziale. Preoccupanti anche i segnali che arrivano dal resto d'Europa, e faccio riferimento soprattutto all'est, no? Perché lì effettivamente, come stavamo dicendo, una deriva xenofoba nelle curve è ancora più marcata. Da questo punto di vista, qual è la specificità di quel fenomeno e quali in quell'ambito le possibili contromisure? Diciamo che soprattutto in Europa dell'Est c'è un fenomeno che si mescola molto con il nazionalismo, cosa che per esempio in Italia non c'è. Noi abbiamo probabilmente problemi relativi al campanilismo, ma invece in alcuni paesi, immagino la ex Jugoslavia, ma anche la Russia, la componente, diciamo, più estremista è una componente fortemente nazionalista, per cui c'è la rivendicazione che le scuole di calcio debbano essere formate per esempio solo da giocatori russi, e non possono essere invece acquistati giocatori neri o comunque non caucasici, diciamo così. Fa parte di un passaggio che di una sottovalutazione di questo fenomeno. Molte volte questi gruppi hanno forte commissione anche da un punto di vista politico, proprio perché rivendicano un nazionalismo che è diventato molte volte anche, fa parte anche dei partiti al potere, quindi c'è una scarsa voglia di disinnescare questi tipi di fenomeni. So, professore, che lei non è un grande sostenitore di queste misure ancor più coercitive che l'UEFA ha intenzione di varare. No, io ritengo che siano giuste le misure repressive, perché ovviamente stiamo parlando di un fenomeno, come dicevamo, fortemente a rischio e fortemente pericoloso per la società. Ritengo che siano poco utili se non sono accompagnate da invece iniziative di prevenzione soprattutto per quanto riguarda una diffusione della cultura antirazzista. Un esempio che io faccio sempre è come mai la FIGC non fa dedicare almeno un'ora di lezione all'anno al problema del razzismo nelle scuole calcio. Stiamo parlando di una norma che è prevista dal codice di giustizia sportiva, quindi sarebbe più utile, accanto a misure repressive che molte volte non vengono neanche capite dai tifosi, perché vengono viste come qualcosa calato dall'alto, andrebbero sempre accompagnate invece da fenomeni di comprensione. Se posso fare un esempio per far capire come siamo messi in Italia, nel derby Inter-Milan, i tifosi interisti hanno diffuso un comunicato dove invitavano gli altri tifosi dell'Inter a non insultare Balotelli perché era inutile, era anzi un qualcosa di perdita di tempo, e hanno stabilito loro cos'era razzismo. Hanno detto: non dite niente sul colore della pelle, negro, nero. Però sono andati negli stadi, nello stadio sono andati con delle banane giganti di oltre 2 metri che sono ovviamente un simbolo razzista. Allora la riflessione è: ma chi lo dice cos'è il razzismo? Cioè, siamo tutti pronti a dichiararci antirazzisti, ma poi nella pratica la cultura si fa se qualcuno si impegna a dichiarare cos'è il razzismo e a spiegarlo ai ragazzi, soprattutto ai ragazzi che vogliono fare i calciatori o i tifosi. Da questo punto di vista, qual è la definizione più efficace? Secondo me bisogna spiegare che tutto ciò che è offensivo nei confronti di un giocatore per quanto riguarda i fattori che abbiamo nella Costituzione, che sono il colore della pelle, in termini di razza, un termine ovviamente molto ambiguo, per religione, per cultura e per origine. Questo è spiegato che deve essere spiegato che questo non può essere fatto. Questo è razzismo, perché lo dice l'articolo 3 della Costituzione anche. Ma va detto che ci sono dei dibattiti anche abbastanza bizzarri all'interno delle curve, dove c'è chi dice che per esempio il bu non è razzismo, ma è soltanto quando c'è l'UUU, cioè il verso della scimmia. Ricordo il sindaco di Corbetta, dopo l'episodio di Boateng, disse in un fuori onda, diceva: perché dire negro, fare del bu a un negro non è razzismo per me, diceva. Va fatta un'educazione abbastanza forte su cosa sia razzismo, e devo dire che mentre in passato noi abbiamo avuto la comunità ebraica che è stata particolarmente attenta anche a spiegare e a far capire quali erano le simbologie, chi si ricorda la polemica anche sul numero 88 di Buffon, perché esiste una cultura che combatte il razzismo nei confronti degli ebrei. In Italia abbiamo una comunità, diciamo, nera, molto meno significativa, molto meno organizzata, e quindi è molto più difficile capire per tutti noi cos'è, quali sono i simboli e sono i cori che sono razzisti. Mauro Valeri, direttore dell'Osservatorio Razzismo e Antirazzismo nel Calcio, grazie per essere stato oggi il nostro ospite qui a Radio 24 e a Bordo Campo. L'impressione, professor Valeri, è che la cronaca ci imporrà, volenti o nolenti, di risentirci presto. Speriamo in senso positivo, però. A Bordo Campo. Da Juventus-Milan di campionato fino alle straordinarie azzurre del tennis, per arrivare poi alle semifinali di Champions League. Non si può dire che siano mancate le notizie di sport questa settimana. Però a noi di A Bordo Campo ha incuriosito una lettera arrivata dall'Hockey Milano Rosso-Blu che vuole essere, diciamo così, una denuncia, ma anche e soprattutto una piattaforma di dialogo, perché Milano, lo sappiamo, capitale europea vuole essere, e allora è bene che lo sia anche e soprattutto, direi, nello sport, visto che l'Expo, la scadenza dell'Expo è sempre più vicina. Allora, nostro ospite oggi è proprio il presidente dell'Hockey Milano Rosso-Blu, Ico Migliore. Benvenuto, presidente Migliore. Buongiorno, grazie dell'invito. Allora, presidente, la ritroviamo a Bordo Campo, perché so che lei è sia un nostro ascoltatore che un nostro amico, dopo che ci eravamo lasciati, diciamo, un annetto e mezzo fa, su per giù, vada a memoria, quando Milano, l'Hockey Milano Rosso-Blu, grazie anche al suo impegno e quello dei suoi collaboratori, stava per sbarcare nella KHL, la Continental Hockey League, per semplificare, una sorta di Champions League dell'hockey europeo, con tutte le squadre russe e le principali squadre dell'est europeo, invitata d'eccellenza anche la nostra Milano. Progetto che a che punto è, presidente? Beh, è un progetto che appunto quando ci eravamo sentiti era appena iniziato e si è sviluppato in 2 anni e adesso stiamo appunto sta partendo la fase 3, diciamo così, che è quella di concretizzare questo progetto che non è subito, ma sarà l'anno prossimo, pensiamo, però ha bisogno ha una serie di problematiche da risolvere ed è per quello che abbiamo scritto questa lettera. Ecco, sintetizzando, c'è il rischio che arrivi la Champions League dell'hockey europeo a Milano, che voi entriate in questa lega, ma il rischio concreto è che vi manchi il ghiaccio sotto i piedi, no? Perché l'hockey su ghiaccio, senza ghiaccio, mi passi la banalità, non si può fare ed è proprio quello che manca a Milano, direi. Certo, non manca in tutti i modi, perché noi abbiamo l'Agorà, che è la nostra casa dove giochiamo in Serie A1 e che è uno stadio che è adatto per la Serie A1, però le caratteristiche della KHL, della Continental Hockey League, che come diceva lei è equivalente alla NBA di basket, insomma, per chi conosce più il basket, quindi ha una lega molto importante che si gioca in tantissime città differenti, in questo caso sarebbe proprio una lega europea, una Champions League dell'hockey, ha bisogno di un impianto con determinati requisiti e a Milano, diciamo, a tutt'oggi, con tutto il lavoro che abbiamo fatto, però non si è visto molto, e questo senza questo impianto o senza le modifiche necessarie agli impianti esistenti, mi riferisco per esempio al Forum, che comunque è un impianto bellissimo che è appunto nell'Interland milanese, che con alcune modifiche potrebbe arrivare a quelle caratteristiche necessarie, non sono ancora, come dire, non si è visto un gran movimento in città, diciamo, dopo il nostro annuncio di voler partecipare a questa lega. Quali sono brevemente gli standard che vi chiedono i russi, perché i russi sono quelli che hanno le mani nella stanza dei bottoni di questa lega importante? Beh, principalmente un impianto con una capienza superiore ai 6.500 posti e oltre tutto una serie di altre facilities che sono sale stampa, un certo tipo di impianto di illuminazione piuttosto che spogliatoi di un certo tipo, insomma una dimensione da impianto, passatemi il termine, europeo e internazionale, che possa contenere una pista di ghiaccio, e questo è le caratteristiche che abbiamo. Costruire un impianto nuovo sicuramente passa troppo tempo, ci vuole moltissimo tempo, però io sono convinto che al di là del forum, oppure ci stiamo aspettando, ci sono altre idee, ci sono altre ipotesi, ne abbiamo parlato, ma aspettiamo delle risposte. Chi sono i vostri interlocutori e quali sono i segnali che finora vi sono arrivati? Noi 2 anni fa ci siamo subito visti con l'assessore allo sport Chiara Bisconti e poi allora anche in regione, insomma in provincia, e tutti sembravano molto sensibili a questo nostro progetto, anche perché poi possiamo entrare nello specifico, ma andrebbe ad essere una cascata molto positiva di risorse su tutto il movimento, non solo dell'hockey ma anche del ghiaccio, e con la possibilità poi di investimenti, di sviluppo del settore giovanile, anche a livello proprio sociale, sui nostri giovani. 2 anni fa grande euforia, grande sì che bello, molto interessante, sviluppiamo, e questa è un'ottica molto positiva. Da allora si è parlato di fare questi tavoli, in realtà noi questi tavoli non li abbiamo visti, si è fatto veramente poco e poco ci siamo stati coinvolti, sì, qualche telefonata, qualche mail dicendo dovremmo sviluppare eccetera, ma il reale intervento non è ancora partito e noi assolutamente non vogliamo perdere questo treno che, ripeto, non è che passa tutti i giorni. Anche perché bisogna ricordare che l'hockey a Milano, l'hockey su ghiaccio, non è uno sfizio, è uno sport che ha grandissima tradizione e anche un seguito consolidato, di cui tra l'altro lei è stato protagonista anche sul ghiaccio, Presidente. Le chiedo ancora, il forum potrebbe essere l'impianto ideale oppure avete anche un piano B? Noi abbiamo ovviamente l'Agorà, che ripeto è la nostra casa, ma che come dimensione non ha la capienza sufficiente. Il forum sarebbe l'ideale come impianto, oppure altri impianti potrebbero essere, non lo so, e io non si capisce bene la pianificazione degli investimenti sulle strutture sportive, io non l'ho ancora capita bene a Milano, vorrei capire quali altre alternative ci possono essere, ho visto che adesso stanno intervenendo sul Vigorelli, no? C'è questo nuovo progetto sul Vigorelli. Devo dire, questo nostro progetto andrebbe un pochettino a modificare anche le nuove risorse possibili per tutti i settori giovanili legati al ghiaccio, perché ci sarebbero degli investimenti che possono arrivare anche dall'estero, e anche ci sarebbe una facilitazione per gli sponsor italiani ad avere visibilità sul mercato internazionale. Non dimentichiamoci che la KHL ha più di 20 televisioni che trasmettono, sono circa 500.000 spettatori all'anno che vanno a vedere le partite agli stadi, quindi è una visibilità internazionale trasmessa in Nord America, cioè ha una visibilità molto importante. importante. È chiaro che noi abbiamo la necessità di a brevissimo chiudere queste problematiche. Tra l'altro lei è anche architetto, quindi la domanda per fortuna trova un esperto su entrambi i campi. Sistemare questo forum per questa esigenza, rendendolo al tempo stesso disponibile per altre discipline del ghiaccio e per altri sport eventualmente, quanto verrebbe a costare in termini di soldi e in termini di tempo? Beh, però diciamo una cosa, adesso noi ci siamo un po' allargati sul forum perché in realtà è una bella struttura, è l'unica a mio avviso capiente per poter trovare una struttura, ospitare oltre a essere stata la casa dell'hockey all'inizio, perché insomma il primo campionato vinto dopo tanti anni a Milano è stato vinto al forum. Il forum è di privati, quindi è di un gruppo privato, quindi bisognerebbe ovviamente trovare un accordo, ma noi quello che chiedevamo è un supporto da parte delle amministrazioni per poter andare ad avere, io sono convinto che non può essere solo a carico dei proprietari del forum, tutt'altro, non vedo perché, ma visto che la nostra squadra può essere un interesse di carattere comunale, ma anche regionale, provinciale, a darci una mano per poter sviluppare questo progetto. Adesso i soldi da mettere, francamente non vorrei entrare nel merito, ma la cosa interessante è quella di poter riavere uno sport ad un livello eccelso, dando una mano non solo al forum, perché anche l'Agora avrebbe bisogno in questo senso di poter migliorare le sue strutture per poter poi accogliere ad un altissimo livello anche la Serie A. È tutto un po' concatenato, ma è un progetto sicuramente molto interessante. Insomma, quello che se ho capito bene il messaggio che arriva dall'Hockey Milano Rossoblù è quello di avere una possibilità, quello che purtroppo, e non solo a Milano, spesso l'impiantistica sportiva di cui disponiamo in Italia non concede agli appassionati di sport maggiori, perché il calcio non è che sta meglio, o minori come si suol dire in questo caso, parliamo di hockey, insomma avere la possibilità di sviluppare non solo un progetto sportivo e sociale, ma anche un vero e proprio business che insomma qualcosa in cassa potrebbe anche portare, no Presidente? Assolutamente, sostenere i settori giovanili cioè diventa un progetto anche di carattere veramente sociale, perché potremmo veramente trovare delle risorse su uno sport, ripeto, bello come l'hockey, che potrebbero arrivare dall'estero, che poi andrebbero sui settori giovanili e quindi anche in sviluppo proprio per lo sviluppo dello sport. Noi portiamo tanti bambini delle scuole a pattinare la mattina, facciamo dei corsi, cioè insomma c'è tutta la parte di giovanili che non è da scartare. Ovviamente lei mi diceva l'ipotesi, e l'ipotesi purtroppo sarebbe quella di andare via da Milano per come chiuderla. Gli unici impianti che sono adeguati ad oggi sono quelli di Torino dopo le Olimpiadi di Torino 2006, ma lo vedremo veramente un po' surreale la necessità che una squadra milanese andasse via da Milano dopo aver ottenuto di essere praticamente, mi passi il termine, draftato per essere in un livello così importante. Sarebbe veramente un peccato per noi stessi, per i nostri tifosi, per il nostro settore giovanile dover andare a Torino. Ovviamente Torino potrebbe essere un partner in cui giocare alcune partite per sviluppare, ed è quello un progetto sicuramente interessante, però migrare proprio del tutto sarebbe veramente un peccato. Anche perché forniamo un assist a chi questo tavolo deve convocarlo e poi renderlo effettivo, con tutti questi russi che arrivano a far shopping per via Monte Napoleone e Quadrilatero della Moda, insomma offrirgli anche l'hockey tutto sommato potrebbe essere anche una buona idea, no? Beh, insomma, non diamo troppi suggerimenti, Presidente. Il russo è il primo sport, insomma, lo sappiamo, loro sono campioni del mondo. Quando sono stati esclusi dal campionato di calcio europeo, Putin ha detto: beh, non importa, tanto noi abbiamo vinto il mondiale di hockey, che è il nostro sport. Tutto il pubblico russo, e non solo russo, tutta quella parte del mondo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ucraina, Bielorussia, Lettonia, sono tutti, si sta aprendo, la Germania stessa, la Svizzera, l'Austria, sono molto aperti all'hockey, quindi è un ottimo mercato. Beh, insomma, chi vuol capire capisca, ma lo faccia anche in fretta, perché l'hockey Milano Rossoblù vuole essere una parte importante della storia sportiva di questa città. Allora, in bocca al lupo al presidente dell'Hockey Milano Rossoblù, Ico Migliore, e grazie per essere stato nostro ospite oggi a bordo campo. Grazie mille, vi faremo sapere gli sviluppi. Assolutamente sì, porte sempre aperte qui a bordo campo per l'hockey su ghiaccio. Grazie mille, arrivederci. Per a bordo campo di oggi è tutto, un grazie a Gianmarco Ferronato in regia. Vi ricordo che potete scriverci all'email a bordocampo@radio24.it, riascoltarci dal nostro sito internet www.radio24.it e dialogare con noi attraverso il blog di A Bordo Campo. L'appuntamento, come di consueto, è per domenica prossima alle 14.30 e il sabato mattina in replica alle 6.15. Ancora una buona giornata da Dario Ricci.